si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì! Può fare! Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori, l'appuntamento con le buone notizie, il sabato e la domenica, e vi ricordo subito di andare sul sito di Radio 24 e cercate la pagina del concorso, scegliete la vostra storia preferita, proviamo a celebrare così i primi 12 mesi di questo programma, la storia che vi è piaciuta di più, la storia si può fare di questo primo anno, poi si vincono anche dei premi, si vince un soggiorno sostenibile offerto da EquoTube, questo per chi partecipa, poi potete andare su Facebook, su Twitter, ci trovate un po' da tutte le parti, noi aspettiamo le vostre segnalazioni, le vostre buone notizie per darci un po' di ottimismo per superare la settimana della cronaca che ci lascia sempre un po' depressi. Notizie così, per esempio, cominciamo dalla Toscana, dalla regione arriva la dote per i lavoratori disoccupati, proprio come quella che un tempo si assegnava alle future spose, solo che invece che al matrimonio, in questo caso si punta, leggiamo da Repubblica.it, a favorire la riassunzione di lavoratrici e lavoratori espulsi dal processo produttivo a causa della crisi, un pacchetto di incentivi alle aziende che assumano e per la formazione, un pacchetto di 13 milioni di euro, buone notizie per chi è disoccupato in Toscana. Restiamo in Toscana per una notizia che non c'entra nulla e poi dite che non esistono più i ladri gentiluomini. Sentite qua, Massa, rapinano la banca ma lasciano i soldi alla pensionata. Il colpo è avvenuto in una filiale del Monte dei Paschi di Siena, non si preoccupi, non le facciamo nulla, hanno detto i banditi a una donna anziana che aveva in mano i soldi appena ritirati della sua pensione. E poi dite che non ci sono più i ladri gentiluomini di una volta. L'ultima notizia viene da Roma, SOS Degrado, la mappa degli edifici abbandonati. Così denunciamo appunto l'abbandono. È l'iniziativa di un gruppo di giovani studenti. Il sito si chiama romaabbandonata.blogspot.it, è un blog. Ed è l'idea molto semplice, dare il via anche in questa città ad una mappatura interattiva del patrimonio immobiliare inutilizzato, dall'ospedale San Giacomo in via Ripetta all'ex cinema America di Trastevere, sono già 60 gli stabili dismessi, fino ad ora censiti dall'assemblea, si chiama così Giovani al Centro, che vogliono dare così un contributo all'idea di recuperare gli spazi abbandonati e dismessi che creano solo degrado nelle città e che invece possono essere recuperati per altre iniziative. Andiamo a cominciare tra poco, prima sentiamo che cosa ci ha lasciato in segreteria telefonica i nostri ascoltatori, il messaggio a salvare l'Italia in un minuto, le vostre ricette, siamo in campagna elettorale, forzatamente si parla sempre di tasse. Io, per risolvere drasticamente la situazione economica italiana, do una ricetta molto semplice e a costi praticamente zero: tassare tutte le donazioni e i lasciti alle chiese ed alle fondazioni. In tal modo si libereranno i capitali per dare lavoro ai giovani e ai disoccupati. Buongiorno, grazie. Riguardo qualche idea per salvare l'Italia in un minuto, siccome svolgo un'attività molto vasta, io faccio opere umanitarie, qua e là ho raccolto tante idee, sintetizzandole tutte si potrebbe avanzare questa proposta. Se tutti quelli del ceto sociale alto, cioè che hanno i più alti redditi, offrissero allo Stato per salvare l'Italia 1.000 euro su ogni 100.000 euro che possiedono, e in pochissimo tempo l'Italia cambierebbe faccia. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi. Noi normali sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani. Proprio come noi, persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però ci hanno le ali per volare via con la fantasia da questa loro atroce malattia. Salutiamo Giuseppina Ladelfa, presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, associazione di genitori omosessuali. Giuseppina, buongiorno. Buongiorno. Prima di tutto, le è piaciuta la canzone di Checco Zalone? C'era così un modo un po' per... No. Sì e no. Sì e no. Perché Uomosessuali non mi piace, no. Vabbè, ovviamente cerca di far ridere, no? Anche con questi strafalcioni. Sì, può darsi. Non devo avere un senso dell'umorismo molto sviluppato. Insomma, a lei non lo fa ridere, che cosa. Vabbè, no. Ma non è questo il punto. Era solo un modo per approcciare questo argomento. L'abbiamo convocata perché, insomma, è stata un po' la settimana in cui... La settimana scorsa c'è stata la sentenza della Cassazione in Italia che ha stabilito che un figlio può restare in adozione a una coppia di donne, in quel caso lì, da una parte. Poi c'è stata la grande manifestazione in Francia, però contraria a questa ipotesi, un po' anche al matrimonio omosessuale, ma è sembrato soprattutto di più alla questione delle adozioni. E allora ci chiediamo, siamo pronti per anche fare questo salto in avanti nei diritti? Noi, Giuseppina, diciamo sempre che se ci sono più diritti per tutti, questo non toglie niente a nessuno. Questa è la nostra posizione. Però io a lei voglio chiedere, perché secondo lei cosa si sente di dire ancora da tanta gente che invece è contraria a questa cosa della possibilità del matrimonio e anche dell'adozione per i genitori omosessuali? Oddio, è difficile che possa dire qualcosa che convinca le persone a cambiare idea in qualche minuto, però come dire, in effetti io penso che la vostra posizione è quella giusta: un diritto dato a qualcuno non lo toglie a nessun altro. La gente molto spesso ha paura perché dice sarà un cambiamento di società, quando invece non vuole vedere che il cambiamento è già in atto. Il fatto che si possa accedere al matrimonio o alle adozioni non sarà un cambiamento, sarà solo dare delle tutele dei diritti al cambiamento che c'è già. Le persone omosessuali oggi vivono in coppia, ma sempre di più e in modo visibile. L'unica differenza senza il matrimonio è che non siamo tutelati, non abbiamo diritti, non possiamo rassicurare i nostri partner per un futuro, e diciamo che la nostra vita amministrativa, patrimoniale è estremamente complicata. Certo, ecco, però Giuseppina, la stessa cosa per i figli: il fatto di negare l'adozione non vuol dire che i gay non crescono i figli, li crescono, sono centinaia di migliaia i figli in Italia cresciuti da persone omosessuali. Dunque negare a loro diritti non vuol dire impedire qualcosa che così non accadrà, perché accade, cioè noi viviamo qui insieme agli altri, i nostri figli vanno a scuola e gli altri, che lo vogliano o no, sono obbligati a confrontarci con questa realtà. Ho capito quello che lei dice. Negare l'adozione e negare ai nostri figli la possibilità di crescere sereni e sicuri. E di essere regolarizzati, perché lei dice una realtà che già esiste. Ecco, però certo, dal matrimonio non si potrà in nessun modo, come dire, frenare. Sì, però c'è un passaggio, no? Almeno per chi è osservatore di questa cosa, perché finché si parla del matrimonio sicuramente è una cosa che riguarda quelle due persone, quando poi si parla di adottare i bambini entra in gioco una terza persona e con tutti i suoi anche eventuali diritti. Sappiamo che ci sono bambini che non riescono ad essere adottati con i sistemi internazionali perché non ci sono abbastanza genitori, quindi... meglio di nulla, potrebbe dire anche chi non ci crede, va bene anche una coppia di genitori omosessuali. Però voi invece sostenete che c'è di più, che i bambini possono crescere in maniera uguale, serena. Non è che lo sosteniamo noi ci siamo solo, come dire, accontentati di mettere al mondo dei figli. Li abbiamo messi al mondo perché eravamo in effetti confortati da quello che già succedeva altrove, in altri paesi dove i figli di gay e lesbiche hanno 30 anni, sono a loro volta genitori, si esprimono, e dunque il fatto di vederli questi qua già cresciuti ci ha rassicurati molti, e dunque abbiamo pensato si può fare, possiamo mettere al mondo dei figli e cresceranno sereni se sono ascoltati, amati, rispettati come qualunque altro figlio cresciuto in questo modo. Perché anche lei ha un'esperienza personale in questo senso. Certo. Lei vive con un'altra donna e ha dei figli. Io ho due figli, una figlia che ha quasi 10 anni e un bambino di 5 mesi, un maschietto. Ecco, io ho messo al mondo la prima, la mia compagna ha messo al mondo il secondo, per noi sono i nostri figli, tutti e due allo stesso modo. E niente, speriamo solo un giorno di poter appunto essere legalmente genitori di tutte e due, in modo di facilitare la nostra vita. Torno però a farle un po' la domanda che l'ho fatto all'inizio, pensando alla manifestazione di domenica in Francia e sperando che questi vostri diritti, io sono con voi da questo punto di vista, vengano riconosciuti, ma come si sente a stare in un mondo che in qualche modo le è anche un po' ostile da questo punto di vista? Beh sì, un po' triste, un po' avvilita, non lo posso negare. Ma come si fa a gettare un ponte con ma faccio altri? Fatica a vedere tutto questo, molto odio e molta incomprensione, molta ignoranza, che non riesco bene a capire. Io penso che tutte queste persone che hanno sfilato domenica in Francia non hanno mai visto in vita loro un figlio cresciuto da coppie omosessuali, non ha mai parlato con loro, non li ha mai visto evolvere nel mondo, e magari sono realmente preoccupati, come dire, alcuni di loro, molti di loro, secondo me, sono, come dire, hanno adottato una posizione reazionaria, che è una posizione politica, perché condotta dall'UMP, che è opposta al governo attuale in Francia, e di questo sono convinta. Ma molti sicuramente erano intimamente convinti di fare la cosa giusta e pensano di proteggere i bambini, ma non riflettono che i bambini già ci sono. Io la ringrazio, Giuseppina Ladelfa, presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, ci ha raccontato un po' la sua esperienza, un po' il suo punto di vista in questo tema che è ritornato d'attualità proprio in questi giorni. Si può fare cronache da un paese migliore. Eccoci qua, avete sentito insomma come la signora Giuseppina Ladelfa, presidente dell'associazione Famiglia Arcobaleno, ha posto la questione dell'adozione da parte di coppie gay. Siete d'accordo, non siete d'accordo? Venitecelo a dire su Facebook, si può fare Radio 24, siamo anche su Twitter, si può fare 24. E vi ricordo ancora il concorso, andate sulla pagina del programma, sul sito di Radio 24, scegliete la storia migliore che vi è piaciuta di più in questi primi 12 mesi di programma, votate. Vince anche un soggiorno sostenibile offerto da EquoTube. Adesso siamo andati a rispolverare il nostro avviso ai naviganti, le previsioni economiche per il futuro, possibilmente ottimistiche. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi provocati da una zona di alta pressione fiscale verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. E allora abbiamo appena sentito una storia, e invece la prossima, che ha a che fare con il nostro avviso ai naviganti, riguarda chi è talmente convinto nella distinzione dei ruoli tra uomo e donna che offre a chi ne è sprovvista il marito in affitto. Parliamo del network ilmaritoinaffitto.it e ne parliamo con uno dei suoi cofondatori, Fabio Cerizza. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Vabbè, insomma, l'iniziativa è nota, almeno molti la conosceranno. È nata qualche anno fa come una moda, forse, o come anche una risposta alla disgregazione delle famiglie, si chiama il marito in affitto per fare tanti piccoli interventi. Vogliamo anche capire da lei se in questi tempi di crisi sono cresciute un po' le domande chi si è rivolto al vostro servizio per così dare una risposta in un modo diverso ai classici bisogni di casa. Cerizza. Sì, diciamo che in questo tempo di crisi anche le richieste per quanto riguarda lavori di casa sono aumentate, perché si cerca in questi tempi ad aggiustare le cose piuttosto che sostituirle, perché chiaramente il denaro all'interno della famiglia è quello che è, e di conseguenza nel limite del possibile, se un oggetto o un qualcosa lo si può aggiustare, chiaro, si cerca di recuperarlo. Esatto. E una delle cose che può venire in mente è come si fa, si va sul vostro sito? Si va sul nostro sito, c'è il numero verde oppure la mail per la richiesta di qualsiasi tipo di lavoro. Il preventivo è gratuito, l'uscita è gratuita, di conseguenza non resta altro che provare e vedere, insomma, di chiamarci, e noi riusciamo e poi si vede da farsi. Che cosa fa il marito in affitto? Quali sono i servizi che svolge normalmente? Dunque, noi passiamo dalla riparazione, non so, per esempio della cinghia, della tapparella, fino a imbiancature, verniciature, e anche dei servizi che di solito sono sempre difficili da trovare se non si hanno parenti o amici che possono aiutarci, come ad esempio portare la macchina da gommista a cambiare le gomme, piuttosto che riparazioni di questo tipo, portare suocera e moglie da qualche parte. La risata è sempre dietro l'angolo, quando la si parla di marito in affitto, esatto, perché voi ci avete giocato un po' anche su questo, una bella trovata di marketing. Che, sì, il nome attira l'attenzione. Poi, e chissà se non c'è anche da raccontare qualche storia, è un po' così, no? Un po' osé, no? Ma osé no, per fortuna osé non ce ne sono stati. Lei come fa a saperlo? Mica riconosce tutti i mariti in affitto. Come vanno a finire tutti questi incontri? Chissà, poi magari a chiamare non saranno solo donne, saranno anche uomini imbranati che non sanno fare i lavori di casa. No, infatti, o imbranati, oppure che non hanno assolutamente voglia di sentire nella moglie, magari nella suocera, chiedere continuamente lavoro. Fammi questo, fammi quello, puliscimi il rubinetto. Certo, chi si è imbattuto in questo? Senta, ma per chi si trovasse in una condizione spiacevolissima e a volte anche deprimente della disoccupazione, può essere questa una cosa veramente da prendere in considerazione? Chi abbia un po' di manualità e chi non sia magari alla ricerca di grandi lavori o di altri lavori, quella di affiliarsi a voi e di darsi da fare per fare questi piccoli lavoretti, è una soluzione davvero? Ma questa può essere una soluzione, perché infatti in Italia ci stiamo allargando notevolmente, perché le richieste di affiliazione sono aumentate. In questo momento ci stiamo allargando anche all'estero, abbiamo affiliati in Francia, Austria e addirittura Olanda. Ma sempre col marchio italiano marito in affitto? Noi abbiamo depositato il marchio italiano qua in Italia, e poi ci sono altri marchi francesi, Le Marie Louis, che abbiamo comunque depositato nei vari stati, perciò c'è il marchio austriaco, c'è il marchio tedesco, Manzumiten, c'è quello francese. Basta andare sul sito e si vedono tutte le varie pagine di tutti i vari stati. E semplicemente può scrivere un affiliato che chiaramente vuole affiliarsi, può scrivere una mail attraverso il sito mettendo il proprio nome e cognome, i propri dati, la zona di interesse, e poi si può chiaramente discuterne e vedere un attimino se la zona è già occupata piuttosto che no. Comunque ci sono dei nostri affiliati che si sono affiliati da un paio d'anni, sì, tipo quello di Vicenza, e si è allargato perché è riuscito a prendere altre zone. Visto che insomma il e lavoro, qual è il costo medio? Si può dire il costo medio di un intervento, sì, del marito in affitto? Dipende tanto chiaramente dai, sì, tipi di lavoro, visto che è molto vario. Comunque la media diciamo che siamo sui 30 euro all'ora, e chiaramente varia se devo attaccare un quadro piuttosto che devo portare una lavatrice al settimo piano a piedi, ecco, questo è. Però visto che il preventivo è gratuito, l'uscita è gratuita, se uno vuole avere un'idea di quanto può andare a spendere, può comunque chiamarci. E va bene, insomma, io la ringrazio per aver fatto il punto anche su questa iniziativa. Fabio Cerizza, cofondatore del maritoinaffitto.it. Grazie, auguri, in bocca al lupo per la vostra iniziativa. E cari amici ascoltatori, se non sapete cosa fare, se siete nella situazione tragica a volte anche della disoccupazione, beh, pensateci, perché no, se avete soprattutto un po' di manualità, altrimenti state a casa vostra, perché non andate a far danni altrove. E se di questa notizia avete sicuramente già sentito parlare, il marito in affitto c'è già da qualche anno, della prossima sicuramente invece non avete mai sentito parlare. Ci siamo addentrati in un ambiente un po' dark, un po' macabro, un po' tenebroso, con la sigla della celebre serie della famiglia Addams, che molti di voi, alcuni di voi forse ricorderanno, la famiglia che vive perenne contatto con l'oltretomba, per parlare della prima agenzia funebre in Italia per musulmani. Ne parliamo con il suo proprietario, Niam Abdessamed. Buongiorno, ho pronunciato bene? Sì, buongiorno, pronunciato alla grande. Ah, meno male, perché l'errore è sempre dietro l'angolo. Niam, il nome è Niam, vero? Esattamente, no, il cognome è Niam, il nome è Abdessamed. Ah, ecco, perfetto. Allora, Abdessamed, da quanto tempo lei opera in Italia con questa agenzia di pompe funebri per musulmani? Noi abbiamo aperto i battenti nell'11 luglio del 2011. E abbiamo aperto a Padova, esattamente in Ponte Vigo d'Arcole. Sì. E qual è la differenza che c'è però tra il rito per un cristiano e invece per i musulmani in Italia, che sono sempre di più ovviamente? Diciamo che le differenze sono grandissime, uno non ha niente a che vedere con l'altro. Intanto la salma di un musulmano non va vestita, sì. È assolutamente peccato vestire la salma, ma va avvolta su un tessuto bianco, su vari strati, diciamo. E poi va seppellita direttamente in terra, cioè va inumata. Invece, ma questo è possibile farlo in Italia? In Italia sì, assolutamente. Possiamo fare l'inumazione sui cimiteri riservati ai musulmani e possiamo fare anche diciamo le tradizioni delle salme e rimpatriarle nel proprio paese. Per cui si può fare, però diciamo che la differenza nei paesi europei è che bisogna seppellire la salma con la cassa, invece nei paesi musulmani... Esatto, è questo che chiedevo, se si poteva fare esattamente come fate. Ma è vero che nei paesi musulmani, islamici, non so, pensiamo ai paesi nordafricani, non c'è l'agenzia delle pompe funebri? Assolutamente no, ci sono, però non è che fanno il servizio funebre, ma fanno solo il trasporto. Sono le agenzie funebre nei paesi nordafricani, nei paesi musulmani, però riservate a fare solo il trasporto. Quindi il resto, diciamo, è un po' a carico delle famiglie, forse, come veniva un tempo anche da noi. Senta, ma potrebbe essere, ora io non vorrei toglierle il lavoro, perché naturalmente è la sua attività e purtroppo il lavoro non manca mai in questo settore, perché vabbè, è evidente, ma potrebbe essere un'attività anche per altri suoi connazionali, perché insomma, quanti sono i musulmani in Italia? Sempre di più. Sono sempre di più, diciamo che i musulmani dichiarati saranno intorno ai 3 milioni di musulmani e di tutte le razze, di tutti i paesi, diciamo. Quindi, insomma, voi siete stati tra i primi in Italia, però gli altri si possono svegliare, possono pensarci, perché forse per i vostri concittadini... Diciamo sì, nessuno toglie niente a nessuno, sì. Tutti possono fare... Lei dice, non esageriamo con la pubblicità perché sennò mi portano via il lavoro, vabbè, ma insomma voi siete... No, io non ho paura che qualcuno mi porti via il lavoro, perché quando l'ho aperta ci credevo a Dio e so che la mia parte di lavoro ce l'ho e nessuno me la porterà via, per cui non mi preoccupo sotto questo punto di vista. Però per fare questo lavoro serve veramente tanta energia e come si dice, tanta voglia a farlo, perché non è un lavoro che si fa e che lo possono fare tutti quanti. Comunque, insomma, lavorare con morti non è una cosa semplice da tutti, è una cosa da persone che possono fare questo lavoro. Ecco. Benissimo, grazie. Allora io lo ringrazio, Niam Abdessamed, proprietario. Come si chiama la vostra agenzia funebre? Si chiama Al-Baqi in arabo, Al-Baqi, diciamo, semplificato in italiano, perché ci sono alcune lettere che sono impronunciabili. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme, cari ascoltatori. Aspettiamo sempre le vostre segnalazioni sulla pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, su Twitter Si può fare 24. Oggi siamo partiti dal punto di vista dell'associazione genitori omosessuali sulla questione dell'adozione di bambini da parte appunto delle coppie gay. Poi abbiamo fatto il punto su un'iniziativa come quella di maritiinaffitto.it in tempi di crisi, e abbiamo parlato anche con il proprietario della prima agenzia di onoranze funebre per musulmani in Italia. È giusto vedere anche come cambia un po' il costume nel nostro paese. Adesso sentiamoci questa canzoncina tutta green. The environment is dying, we need a solution fast. If we don't devise a big old plan, it simply will not last. We don't want to freak anybody out, we don't want to make a scene. We'd rather sweep it under the mat, but instead we'll paint it green. Green, green, green, we'll paint it green. Doesn't really matter what it is or what it does or why it stings or what it means, as long as it is green. Doesn't really matter what it burns or what it makes or what it kills or what it's for, as long as it is green. Green, green, green, green, let's make it green. E questa MTV Green Songs, che insomma credo per chi sa l'inglese sia anche una canzoncina un po' ironica su come pomposamente spesso parliamo di salvare il pianeta con le iniziative più originali. L'abbiamo scelta perché vogliamo parlare di questo argomento. L'Eco Vigile sbarca anche a Sapri, un'iniziativa di cui abbiamo parlato già in occasione di un'altra città. Adesso però salutiamo intanto il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Quanti abitanti fa la sua città? Così inquadriamo un po' l'argomento. 7.000 residenti e diciamo un 10.000 che gravitano abitualmente sul territorio comunale, perché abbiamo frazioni di comuni vicine che in effetti sono abitanti del nostro, utilizzatori della nostra città. Siccome l'automobile si lascia sempre di più a casa e poi se ne vendono sempre di meno, dico io scherzando forse, ma speriamo, soprattutto ecco, lei dice speriamo, ma soprattutto siccome il fatto della raccolta differenziata, insomma del rispetto dell'ambiente, è sempre più importante da tutte le parti, voi siete partiti con un progetto dal 1 gennaio che prevede questa figura dell'ecovigile. Quali funzioni? Cos'è? Cosa fa questo ecovigile? Quindi dipendente della Polizia Municipale che è stato assegnato a questo tipo di servizio, un servizio che svolge la mattina dalle 7:30 fino alle 11:30 di verifica sul corretto svolgimento della raccolta differenziata, cioè sull'applicazione dell'ordinanza sindacale che impone i giorni del conferimento e le modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini. Dopo questo orario si occupa invece di un controllo delle aree più periferiche per andare a controllare se eventualmente ci sono abbandoni di rifiuti in aree periferiche, una vigilanza accompagnata con la società che svolge il servizio di raccolta differenziata e da un consigliere comunale che è delegato a questo tipo di compito. Ecco, ma quali sono i risultati che vi aspettate da questa cosa qua? Insomma, per esempio di crescere nelle percentuali di raccolta differenziata, un comune sindaco, sì, le voglio chiedere, se aumenta la sua raccolta differenziata cosa ci guadagna? Ci sono degli incentivi da questo punto di vista? Guardi, noi stiamo per andare in gara con il nuovo modello di raccolta. L'obiettivo che ci poniamo è entro il 2013 ad arrivare al 60%. Oggi il comune è attestato da intorno al 40%, ma con un 40% molto faticoso. Perché il 60%, se non sbaglio, non è il livello richiesto minimo? Sì, che nessuno rispetta, però qualcuno lo rispetta a questo livello. E in più il problema reale è che noi ci siamo posti, abbiamo fatto una delibera di consiglio comunale, puntiamo all'obiettivo rifiuti zero. Guardi, noi facciamo una valutazione in questi termini molto semplici: una comunità come la nostra, sicuramente non di numeri importanti, 7.000 abitanti. Però in un territorio sappiamo che con la questione dei rifiuti spesso non è che abbia fatto una bellissima figura, insomma non proprio voi, proprio a fianco però. Sì, però noi non possiamo consentire più, penso che sia un problema che riguardi non solo il nostro territorio, non solo la nostra comunità, ma il nostro comune ha una spesa di raccolta e per smaltimento di rifiuti che si avvicina al 1.200.000-1.300.000 euro l'anno. Sono un'enormità e va assolutamente posto in essere un'iniziativa che tenda a ridurre i rifiuti, che tenda a migliorare la differenziata, che abitui e educhi. Ecco, ma come li spendete, mi scusi, questi soldi, per capire se è possibile che poi arriviate a un risparmio? Per dirle, il 60-70% di questa somma è per il conferimento in discarica. Noi spendiamo quasi 400.000 euro per conferimento, 250.000 euro per il trasporto. Quindi sono soldi che potremmo tranquillamente provare a recuperare migliorando il servizio e riducendo il quantitativo di rifiuto e aumentando la quantità di riciclabile, perché il riciclabile, come lei sa, non va in discarica e quindi non costa, e quindi è un'operazione importante. Noi pensiamo, col nuovo modello che andiamo a mettere in gara da qui a breve, di dare anche una premialità, cioè col nuovo modello i cittadini che aumenteranno, che agevoleranno la differenziazione attraverso un conferimento spontaneo nelle isole ecologiche mobili, questo è importante, avranno uno sgravio sulla loro bolletta, considerato che a breve ci dovremo misurare anche con questa TARES che tanta preoccupazione, però che è slittata già di qualche mese, quindi sì, avete è slittata, ancora ma prima o poi qualche arriverà, mese in più. Quindi, e che tipo di sgravio, sindaco, avete in mente? Guardi, lo sgravio in questi termini: più differenzio, meno pago. E quanto pago meno? Pago meno in quanto più il comune risparmia. Allora, se noi conferiamo 100 kg di indifferenziato abbiamo un costo, se invece dei 100 kg andiamo al 60%, significa che diventa 60 chili di materiale riciclabile, noi abbiamo già un risparmio secco del 40% sulla bolletta. Questo chi si sarà? Sarà però un risparmio, questo, diciamo, sul territorio del comune, per quartieri o per singole famiglie? Il modello che vorremmo mettere in campo, infatti nella gara che stiamo per pubblicare c'è questo. Noi abbiamo messo giù un'idea che è quella di attivare delle isole ecologiche mobili, dove ci sarà un operatore che peserà la quantità di materiale riciclabile, quindi lo controlla anche, e con una tessera a fine mese, a fine anno, ogni cittadino saprà quanto vetro ha conferito, quanta carta ha conferito, quanto alluminio e quanto di altro materiale riciclabile. Tutto questo gli sarà sottratto dal costo della bolletta della tariffa. Un meccanismo, insomma, a incentivi che già stato sperimentato anche in altre città. È giusto estenderlo e farlo sempre di più. L'idea è un comune virtuoso se i cittadini sono virtuosi, e i cittadini virtuosi vanno premiati. Quindi in questa direzione anche l'attività che abbiamo iniziato da inizio anno con il vigile ecologico ha due obiettivi. Uno, quello di far rispettare le regole, l'altro è di educare, di dare un messaggio, cioè che l'amministrazione vuole che i cittadini operi all'interno delle regole, perché se 10 cittadini non fanno la differenziata fanno perdere lo sforzo che fanno centinaia di cittadini, e questa è una cosa rispetto alla quale noi non possiamo più permettercelo, anche perché ci potremmo trattenere sul territorio delle risorse da spendere in migliorare i servizi. I cittadini che spendono meno di tariffa probabilmente li spenderanno nei nostri negozi, in altri servizi. Aumentiamo la capacità di spesa delle famiglie e evitiamo spreco, perché i rifiuti sono spreco fondamentalmente. Avevamo detto che di questa iniziativa, una cosa simile, avevamo parlato qualche mese fa per un'altra città, parliamo di Bollate. Allora abbiamo il piacere di mettere in collegamento anche Antonello Martelengo, comandante dei Vigili di Bollate. Salve. Buongiorno a voi. E siccome ci eravamo lasciati ai primi di luglio con un'iniziativa che stava prendendo piede proprio in quel periodo, sono passati diversi mesi, alla luce di quello che è stato in questo periodo che è passato, caro comandante, questa iniziativa dell'Ecovigile la rifareste, la rifarete, la portate avanti? Come guardi, sta andando? Le posso subito dire che l'iniziativa dell'Ecovigile verrà riconfermata per tutto il 2013, quindi... è un'iniziativa sicuramente che ha dato i suoi risultati, i suoi frutti, quindi contiamo sicuramente di ripeterla per tutto l'anno 2013. Ormai anche perché ormai diciamo si è resa un'esperienza ormai organica, nel senso che noi tutte le settimane facciamo questo servizio, quindi abbiamo superato anche la cosiddetta fase sperimentale da questo punto di vista. Andate in giro smultando tutti quelli che sgarrano con la raccolta. Guardi, posso dire che nel corso del 2012 abbiamo elevato 49 verbali di accertamento per violazione al regolamento di gestione dei rifiuti. Possono sembrare poche, ma sono 50 situazioni che sono state sanzionate e si spera arginate. Le posso dire che il totale di accertato, ecco, per avere un dato numerico di riferimento, ammonta a 5.250 euro. Ha sentito, sindaco di Sapri, insomma ne avete di strada da fare, e questo può essere un po' il punto d'arrivo. Io non so se il comandante di Bollate vuol dare un suggerimento a Sapri, che sono un po' più indietro rispetto a voi in questa sperimentazione, oppure no, se lo vuole salutare. Sì, il suggerimento mi sembra una parola grossa, ecco, diciamo che posso dire quella che è stata la nostra esperienza. Anche noi a nostra volta eravamo magari indietro rispetto ad altri comuni, ad altre realtà. Noi siamo partiti innanzitutto adeguando il vecchio strumento del regolamento comunale di gestione dei rifiuti, lo abbiamo rivisto ampiamente in maniera appunto organica, lo abbiamo stilato, fatto approvare dal consiglio comunale, poi abbiamo approvato con delibera di giunta le relative sanzioni. Poi questo... Ecco, adesso però non ci vada troppo sul tecnico, perché sennò poi vi metto in collegamento, vi faccio parlare tra di voi, vi date i suggerimenti tecnici. Io stavo scherzando, e però volevo naturalmente sapere se c'era un incoraggiamento da parte, ma mi sembra di sì. Io vorrei chiudere con il sindaco di Sapri, se vuole aggiungere qualcosa. Ha sentito, insomma, quasi 50 multe, cercate di non fare troppe solo le multe, sennò poi... in 15 giorni. Allora state andando giù pesanti. Siamo all'inizio. Ci avete un gap da recuperare, però non fate solo le multe, sennò poi la gente pensa che serve solo a raggranellare soldini. È principalmente un percorso educativo, stiamo lavorando con le scuole, abbiamo fatto nella giornata della riduzione del rifiuto, abbiamo fatto una bella esperienza con le scuole. Sì, perché poi mi ricordo che a Bollate avevate fatto una bella cosa, che tutti i soldi che prendevate con le sanzioni venivano reinvestiti per incentivare la raccolta differenziata. Esatto. È vero, comandante? Ecco, esatto. Esattamente, quindi è quello che succederà nel 2013. Poi, se posso, naturalmente, sempre nell'ambito dei suggerimenti, come si diceva prima, magari partire con una campagna informativa a tutti i cittadini prima di operare con le covigilanze, quindi con le sanzioni. Va bene, la campagna informativa abbiamo capito, adesso sentiamo un po' male, però questo l'ha detto. Dobbiamo chiudere, io vi saluto entrambi, il comandante di Bollate, Antonello Martellengo, ma soprattutto la nuova iniziativa Sapri, il sindaco Giuseppe Del Medico, grazie per essere stati con noi. L'Ecovigile, una nuova realtà che ci accompagnerà anche per il futuro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari e non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa. Se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandera, e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. Se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. L'iniziativa dell'Associazione di Consumatori Primo Consumo, un numero verde contro le ludopatie, per dare una mano a chi si ammala del gioco e mette le monetine nella macchinetta che gli promette tante altre monetine, gioca e si abbrutisce di brutto. Il numero verde lo diciamo adesso per la prima volta, ma lo ridiremo ancora: 800 185 4553, ripeto, 800 185 4553. Ne parliamo con la psicologa psicoterapeuta che gestisce questo servizio, Clotilde Marinacci. Buongiorno Clotilde. Sì, buongiorno a tutti. Allora, voi state sperimentando questa cosa da un annetto circa, adesso siamo tornati a parlare del fenomeno. C'è stata, sì, la barista di Cremona che ha detto stop ai videopoker, il decreto Balduzzi, sì, che ha cercato di fare qualcosa, la Caritas di Milano addirittura che parla di una emergenza sociale per questo fenomeno. Prima di tutto le chiedo, le telefonate al vostro numero verde sono stabili, sono in aumento in questo periodo? Le telefonate al nostro numero verde sono in crescente aumento, quindi diciamo superato un momento di rodaggio sono in progressione, per cui registriamo un numero sempre maggiore nel, sì, periodo. Senta, ma si dice, no, che so, si potrebbe anche dire, se uno gioca, è adulto e vaccinato, cavoli suoi se decide di spendere tutti i suoi soldi. Poi però si parla di, perché si parla di fenomeno sociale, di malattia sociale addirittura per il gioco? Sì, diciamo che quello che può creare un po' di confusione e anche un po' di difficoltà a riconoscere una situazione patologica da una situazione normale è proprio il fatto che il gioco è socialmente un'attività riconosciuta, difficilmente riconoscibile invece come individuabile come una situazione malata. Però nel gioco ci sono vari livelli nell'attività del gioco, quindi una delle cose che noi facciamo rispondendo ai nostri telefoni è quella di aiutare le persone proprio a autovalutare la, sì, propria situazione, quindi riconoscendo un livello sociale da uno problematico o da uno già chiaramente patologico. Senta, ripetiamo ancora il numero 800 185 4553. Per correggerlo, perché il numero giusto è 800 185 4553. Ah, c'erano 5 di troppo, allora ridiciamolo, mi scusi, perché qua è importante, 800 185 4553, e questo è il numero corretto. Sì. Senta, quali sono le storie che lei ha ricevuto al telefono che l'hanno colpita di più, sì, se le ricorda? Guardi, penso di sì. Le posso descrivere brevemente due casi, forse all'opposto, che evidenziano due aspetti specifici di questo problema. Il caso, sì, di un ragazzo che è arrivato ad accumulare una forte somma di debiti attivando delle finanziarie. Parliamo di un ordine di 50.000 euro. Accidenti, un ragazzo. Quindi, poi, sì, se lei considera. Una cosa che ti può davvero deprimere, perché è una cosa pesantissima. Infatti, il vissuto di questa persona era chiaramente questo, dichiaratamente questo, con idee suicidarie e che per fortuna. Lei è riuscita. Lei poi è a conoscenza anche del seguito di queste storie, riesce un po' a tirare le fila? O non è possibile? Questo è il limite di un servizio, telefonico. Vabbè, non è nei vostri intenti. Voi siete lì per dare una prima mano, un primo soccorso, sì. Mi sembra evidente. Senta, sì. Però diciamo che a volte si riesce a creare un legame. Una relazione tale per cui la persona ha proprio il piacere di richiamare per tenerci al corrente di come è andato poi il suo percorso. Senta, ma il decreto Balduzzi, no? Che è entrato in vigore tra quei primi di gennaio, eccetera, qualcuno ha detto un'occasione persa, d'altra parte è un tentativo di mettere un argine un po' a questo fenomeno. Lei che ci vive a contatto tutti i giorni, come lo giudica? In 30 secondi, perché poi dobbiamo chiudere, ahimè. E io in 30 secondi le dico proprio velocemente che secondo me è appunto un primo passo utilissimo e vantaggioso per legittimare la situazione di tante persone che altrimenti rischiavano di rimanere in un sommerso. E vabbè, insomma, un primo passo, ce ne vorranno degli altri, mi par di capire. Comunque è meglio iniziare che stare fermi a guardare gente che si abbrutisce, purtroppo, ed è una vera e propria malattia certificata. Grazie Clotilde Marinacci, psicoterapeuta che gestisce il servizio telefonico. Il numero verde, lo ripetiamo, 800 185 453. Chiamate se ne avete bisogno. È tutto per la puntata di oggi. Si può fare. Io ringrazio Franco Piantanide in redazione, Andrea Piana che ha scritto con me il programma, Filippo Aureggi in regia. Per quanto mi riguarda, anche da Alessio Maurizio il saluto, l'augurio di una buona giornata, e ci risentiamo sabato prossimo.